suono onomatopeico, come è proprio la lingua napoletana, insomma. Sì. Ma la fabulazione del personaggio, questa sorta di un po' tutto, no? Un po' è Napoli stessa, un po' è questo personaggio simpatico, ma anche scorbutico, ma noi lo seguiamo e ci affasciniamo. È un po' fu la sintesi, devo dire che questo primo testo di Enzo indicò proprio la strada che poi lui avrebbe seguito ampiamente, verso una, più che una narrazione lineare, ma molto, invece molto immaginifica, molto visionaria, ecco. Carlo, lo spettacolo sta girando e sta avendo una grande fortuna. E, quando è partito tutto e quali saranno le prossime tappe? Le prossime tappe speriamo che siano sempre numerose e che non si fermino mai. Però, dunque, prossimamente abbiamo Nocera e Napoli. Torniamo a Napoli, al Teatro Nuovo, dal 16 al 18 marzo. È partito ormai, credo, sono 3 anni che giriamo. Sì, siamo ovviamente sono tante ancora le città che dovremmo toccare, che ci piacerebbe toccare. Siamo stati all'estero, siamo stati a Lugano, siamo stati a Mosca, e questa è la bellezza, è la cosa del teatro, quando ti sorprende oltre la parola, perché c'è qualcosa che va molto, molto oltre quello che viene detto, che quello che vedi, e supera anche le barriere. Perché, pur essendo così parlato, diciamo, ecco, supera le barriere della difficoltà della comprensione della lingua. Questa è la cosa, è stata una scommessa che poi, sai, insomma, un teatro non è mai la sfera di cristallo, non sa mai come va a finire. Questa è un'alchimia vincente, perché sono tanti gli ingredienti veramente eccellenti. Non solo il testo, ma una schiera di collaboratori pazzeschi, quindi con Imma che è straordinaria, ed è il motivo che ti dicevo prima, che i femminelli non sono legati all'idea del femminile o del maschile, e questo mi ha consentito di farlo interpretare a un'attrice come Imma, che insomma, questo è veramente straordinario. In chiusura, Carlo, ci lasci tutti i riferimenti del Teatro Elicantropo, ma anche di Scannasurice in particolare? Adesso, i riferimenti, che senso, scusami? Di internet. Ah, vuoi questo? Va, certo. Allora, il teatro elicantropo, il sito è www.teatroelicantropo.com. Perfetto. Mentre, di Scannasurice lo trovate, Eh Scannasurice, sì, eh sì. Abbiamo una pagina Facebook, Basta cercare su un motore, insomma, di ricerca. come? Basta andare su un motore di ricerca ed Ma esce fuori, sì, insomma. Scannasurice imperversa pagina Facebook. Allora, Carlo, in chiusura ricordiamo l'appuntamento al Teatro del Lido di Ostia, 3 e 4 marzo, con Scannasurice di Enzo Moscato, con Imma Villa, regia di Carlo Cerciello, che salutiamo, ringraziamo. Carlo, a presto, un abbraccio. Super grazie sempre a voi, tanti, tante, tante belle cose. Ciao Carlo, ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao Federica, ciao.